Il dì seguente, con un tempo di calma e di gran calore, il battello giungeva a New Orleans. Era uno scompiglio generale. Ciascuno preparava qualche cosa sua o radunava i propri oggetti. L'equipaggio era intento a ripulire e lustrare ogni parte del naviglio affinché fosse tutto splendido e festoso per la sua entrata nel porto. Seduto sul ponte inferiore, con le braccia incrociate, sul petto, il nostro amico Tom volgeva spesso gli inquieti suoi sguardi verso un gruppo di gente all'altra estremità del battello. Colà era la bella Evangelina, un po' più pallida del giorno prima, ma riavutasi pienamente dal suo sinistro. Presso lei, ritta, stava un giovane di forme eleganti, a metà sdraiato sopra una balla di cotone con un portafogli aperto sulle ginocchia. Era facile riconoscere in lui il padre di Evangelina dal portamento nobile e grazioso del capo, dai grandi occhi, dai capelli bruni dorati. Solo l'espressione della fisionomia era differente. Gli occhi suoi, uguali di forma e di colore a quelli di Evangelina, nulla avevano della soavità mistica di quelli della sua figlioletta. Il suo sguardo era franco, ardito, luminoso, ma di un lume tutto terrestre. Un'espressione di fierezza e di sarcasmo si leggeva sulle sue labbra e una gran disinvoltura unita a un sentimento di superiorità pieno di grazia si palesava in tutti i suoi movimenti. Egli, certo, con un'aria di noncuranze, con un buon umore comico o disdegnoso, porgeva orecchio alle parole di Haley, il quale intesseva le lodi della sua merce. Insomma, tutte le virtù morali e cristiane sono racchiuse in questo portafogli di marocchino, egli disse quando Haley ebbe finito. Orsù il prezzo, brav'uomo, non mi fate una domanda indiscreta e vedremo di intenderci. Bene, fece Haley, chiedendovi non più di 1.300 dollari, io mi rifaccio appunto delle spese, non ci voglio guadagnare nulla. Oh, poveretto! Esclamò il giovane, fissandolo con uno sguardo beffardo. Voi lo ponete a così buon mercato, ne sono certo per riguardo mio. Senza dubbio, la vostra signorina pare che ne sia incapricciata ed è cosa naturalissima. Ne convengo, ella invoca la bontà vostra, ma poiché ci fate entrare di mezzo la carità cristiana, che ribasso voi farete per contentare questa damigella alla quale ne è incapricciata? Ecco. Esaminatelo bene, riprese il mercante. Guardate un po' con le sue membra, il suo petto robusto è forte come un cavallo. Guardate che testa. La fronte alta denota un negro intelligente, buono a ogni cosa. Vedete, quando anche gli fosse inetto e scemo, varrebbe molto solamente per la sua corporatura. Le sue facoltà poi ne accrescono assai il valore. È dotato di sì rara intelligenza che può governare da sé solo i beni del padrone. Ha una vera attitudine per gli affari. Male, malissimo, egli sa troppo, disse il giovane con lo stesso ghigno beffardo. E non avrà gran fortuna nel mondo. Cotesti abili neri non sanno far altro che fuggire, rubare i nostri cavalli e mettere una confusione diabolica dappertutto. Orbene, 200 dollari vi basteranno, spero, per le sue qualità d'ingegno. Ah, voi parlate bene, ma bisogna tener conto dell'indole di Tom. Posso mostrarvi gli attestati del suo padrone e di altri ancora. Egli è pio, devoto, umile, come ve ne sono pochi a questo mondo. Perciò nel suo paese lo chiamavano il predicatore. E io potrò farne il cappellano della famiglia, soggiunse il giovane. Bell'idea. La religione può dirsi una merce piuttosto rara in casa mia. Voi ora dite per Celia. Che ne sapete? Non me lo date per un predicatore? Da qual sinodo o da qual concilio fu esaminato? Su, su, vediamo le carte se non vi incresce. Haley avrebbe potuto perdere la pazienza qualora il tono scherzevole del giovane non gli avesse lasciato intravedere un bel profitto alla fine dei conti. Egli trasse dunque dalla tasca un portafogli unto e bisunto del quale si diede a esaminare il contenuto attentamente e il giovane lo guardava in aria di noncuranza e di disprezzo. Oh babbo, compralo, quanto lo pagherai non importa, gli sussurrò all'orecchio teneramente Evangelina, saltando sulla balla e gettando le braccia al collo di suo padre. So che hai molti denari e poi mi piacerebbe tanto di averlo. E che vuoi farne, Eva mia? Pensi di servirtene da fantoccio o da cavallo di legno? Oh, io voglio farlo contento. Beh, è una ragione certamente originale, disse il padre. Qui il mercante presentò l'attestato del signor Shelby al giovane, che lo prese con la punta delle dita e vi gettò uno sguardo indifferente. È uno scritto da signore, disse, è redatto a dovere, ma io sono incerto appunto per il suo ardore religioso, soggiunse voltando gli occhi in modo espressivo. Il paese ribocca di gente pia, i candidati alle elezioni sono tutti religiosissimi e le cose vengono fatte con tanta religione nello Stato e nella Chiesa che ognuno si aspetta di essere gabbato ogni momento. Del resto io non so qual credito abbia ora la religione sul mercato, su via, ditemi. Quanti dollari valutate la pietà del vostro nero? Avete un bel celiare, disse il mercante, ma alla fine io non parlo senza criterio. Bisogna distinguere in fatto di religione. In alcuni è ipocrisia, vi sono persone che frequentano le adunanze pie e cantano e sermoneggiano, ma costoro non sono nulla di buono, siano neri o bianchi. Quella però di cui vi parlo è di un genere tutto diverso e io la vidi più volte coi miei occhi. Essa rende i neri miti, placidi, composti e per nulla al mondo essi farebbero una cosa che a loro sembri cattiva. Del resto, avete letto quello che di lui scrive il suo antico padrone. Sentite, soggiunse il giovane traendo il portafoglio e cominciando a contare i biglietti di banca. Se mi garantite che io posso comprare questo genere di religione e che sarà posta per mio conto nel libro di lassù, non starò a lesinare tanto nella spesa. Che ne dite? Oh, non garantisco nulla io, disse Haley. Credo che ciascuno dovrà rendere conto delle azioni proprie senza giovarsi delle altrui. Beh, in tal caso è increscioso pagar tanto per la religione di un nero e non poterne trarre alcun profitto in un luogo dove essa occorre maggiormente. Mentre diceva così, il giovane porse a Haley alcuni biglietti, indi soggiunse: Ecco, vecchio mio, contate il vostro denaro. Va bene, fece Haley tutto raggiante di contentezza. E traendo di tasca un calamaio di corno, si pose a stendere un atto di vendita che un istante dopo consegnò a St. Clair. Vorrei sapere se si facesse l'inventario della mia persona quanto potrei costare, disse il giovane dopo aver osservato appena la carta. Un tanto per la forma della mia testa, un tanto per le braccia, un tanto per le gambe e per giunta un tanto per la mia educazione, per l'istruzione, per l'ingegno, per la moralità, per la religione. Quest'ultimo articolo, per esempio, non porrebbe un grande aumento di prezzo, credo. Ma vieni qua, Evangelina. E prendendo per mano la figlia, attraversò il bordo e si recò a prendere possesso del suo nuovo acquisto. Messa la punta del dito sotto il mento di Tom, gli disse col più gaio umore: Guarda, Tom, ecco il tuo nuovo padrone, che te ne pare? Tom sollevò il capo. Non era possibile vedere quel volto pieno di gioventù e di brio e non sentirsene vinti nell'anima. Gli occhi di Tom si inumidirono e col più vivo del cuore gli esclamò: Dio vi benedica, padrone. Lo spero almeno. È più per merito delle tue preghiere che non delle mie. Orsù, dimmi un poco, sai guidare i cavalli, Tom? Sì, padrone, il signor Shelby ne aveva molti. Benissimo, io ti farò cocchiere, a condizione che tu non ti ubriachi più di una volta alla settimana, eccetto i casi straordinari. Tom parve non meno sorpreso che mortificato di questo detto offensivo. Non mi ubriaco mai, signore. Ah, oh, la stessa canzone l'ho sentita ripetere altre volte. Vedremo, vedremo al fatto. Sarebbe ottima cosa per tutti i riguardi se fosse la verità. Sta di buon animo, figliuolo mio, soggiunse egli affettuosamente nel vedere che Tom aveva preso un'aria triste. Io non dubito delle tue eccellenti intenzioni. Potete esserne certo, padrone, rispose Tom. E voi sarete contento, soggiunse Evangelina. Il babbo è molto buono e tratta bene tutti, ma gli piace di celiare. Il babbo ti è molto obbligato di questa raccomandazione, disse St. Clair ridendo e si allontanò. 15. Del nuovo padrone di Tom e di varie altre cose. Ora che la sorte del nostro umile eroe si commischia a quella di più alte persone, è pur necessario dare alcuni cenni di queste. Agostino St. Clair era figlio di un ricco piantatore della Louisiana, la cui famiglia era originaria del Canada. Di due fratelli simili in tutto, di indole e di temperamento, uno si stabilì in una fiorente e bella fattoria del Vermont e l'altro diventò un dovizioso piantatore della Louisiana. La madre di Agostino era una signora francese, eugonotta, la cui famiglia Emigrò nella Louisiana al tempo in cui vi era da poco stabilita la prima colonia. Avendo ereditato dalla propria madre un'eccessiva delicatezza di complessione, Agostino fu mandato, per consiglio dei medici, a passare alcuni anni della sua infanzia presso uno zio nello stato del Vermont, dove il clima, freddo e più sano, avrebbe conferito a renderlo più robusto. Nella prima giovinezza si notava in Agostino St. Clair una sensibilità grandissima, più propria alla mite indole di una donna che al vigore del suo sesso. Ma col tempo una più virile fierezza velò così bene quella squisita affettuosità che pochi si accorgevano quanto fosse ancor desta e viva nel fondo. Dotato di singolare ingegno, Agostino propendeva tuttavia verso l'ideale e l'estetico e naturalmente aborriva gli affari e le faccende domestiche. Non appena compiuto il corso dei suoi studi in collegio, il suo schietto cuore si accese di amore vivissimo per una giovinetta di uno degli stati del nord, la quale, alla rara bellezza del corpo, accoppiava le più pregevoli qualità dell'intelletto. La sua ora venne, l'ora che viene una sola volta e nella quale sorge al nostro orizzonte la stella che troppo spesso non riluce se non di una vana speranza, ma che resta eternamente impressa nel nostro cuore. Ahimè, quella stella non brillò che un istante per Agostino St. Clair. Egli e la gentil giovinetta furono ben presto fidanzati. Tornato nel mezzogiorno per fare i preparativi delle loro nozze, Agostino si vide d'improvviso respinte le sue lettere, accompagnate da un breve avviso, col quale il tutore di lei gli annunciava che ella, prima del suo ritorno, sarebbe moglie d'un altro. Furente e quasi fuori di sé dal dolore, Agostino sperò invano, come accade a ben altri, di scacciarne dal suo cuore perfino la rimembranza con uno sforzo disperato. Troppo altero per discendere a suppliche o chiedere spiegazioni, si lanciò nel turbine di una società galante. 15 giorni erano appena trascorsi dall'arrivo della lettera fatale e St. Clair era già il riamato amante di una bella a quei giorni celebrata e, poco tempo dopo, il marito di una cara donnina, elegantissima, con un paio di grandi occhi neri e 100.000 dollari. Non occorre dire che ognuno lo stimò il più felice degli uomini. I novelli sposi stavano godendo il primo mese del loro matrimonio, corteggiati da una splendida comitiva di amici in una loro deliziosa villa presso il lago di Pontchartrain, quando un giorno fu consegnata ad Agostino una lettera, il cui carattere era da esso troppo ben conosciuto. In quel momento egli, circondato da un crocchio di giovani damerini, si abbandonava tutto al brio di una gaia e rumorosa conversazione. Alla vista della lettera, un pallore mortale gli velò il volto, ma gli riuscì di conservare la sua presenza di spirito e continuò per un po' di tempo a cianciar di mode e galanterie. Ma poi sparì a un tratto e corse a chiudersi nella sua camera dove, solo, tremante, aprì quella lettera che sarebbe stato meglio per lui non avere mai ricevuta. La ragazza che gli aveva tanto amata gli raccontava quanto ella avesse sofferto, perseguitata dal suo tutore, il cui figlio desiderava la sua mano, e vedendo che le sue lettere rimanevano senza risposta, il dubbio e il dolore avevano dato il tracollo alla sua salute. Ma finalmente ella aveva scoperto la frode di cui era stata lungamente vittima e gli scriveva quella lettera piena di espressioni di speranza, di gratitudine e di proteste di inalterabile affetto, le quali al cuore di Agostino suonavano più amare della morte. Egli le rispose subito: «Ho ricevuto la vostra lettera, ma troppo tardi. Io vi credevo infedele e la disperazione mi si era cacciata nell'anima. Oggi io sono ammogliato, tutto è finito, l'oblio soltanto. Ecco tutto quel che resta a me e a voi». E così ebbe termine il romanzo, Il sogno di Agostino St. Clair. In tal modo si dileguò l'ideale della sua vita. Ma la realtà rimase, la realtà simile a una spiaggia deserta, fangosa, uniforme da quando il riflusso della marea ne ritirò le onde azzurrine, ingemmate di tremula luce, popolate di fugaci barchette sparse di alati navigli, armoniose di aure e di flutti che scherzano insieme e di remi che si tuffano in cadenza. Nei romanzi, di solito, il cuore degli amanti si spezza, la morte sopravviene e la loro storia finisce, cosa in verità molto comoda. Ma nella vita reale non si muore, neppure quando vediamo perire intorno a noi tutto quello che ci rende cara la vita. Siamo costretti a bere, a mangiare, a vestirci, a far visite, a vendere, a comprare, a parlare, a leggere, a compiere, insomma, tutte quelle occupazioni quotidiane e monotone che formano appunto la vita reale. E ciò era quello che restava ancora ad Agostino Sinclair. Se la sua sposa fosse stata degna di lui, ella avrebbe potuto, come una donna può, fasciare quella piaga dolorosa e intrecciare ancora di seta e d'oro il filo della sua vita, ma ella era incapace di neppur sospettare i patimenti di suo marito. Come già abbiamo detto, Maria Sinclair consisteva tutta in una donnina elegantissima, in un paio di grandi occhi neri e in 100.000 dollari, nessuna delle quali cose ha precisamente la virtù di consolare un cuore che soffre. Quando Agostino, pallido come un morto, fu trovato giacente sopra un sofà e allegò per pretesto un'emicrania violenta, sua moglie gli raccomandò di fiutare i sali. Ma i giorni passavano, le settimane trascorrevano e siccome quel pallore e quell'emicrania persistevano ostinati, Maria disse soltanto che non avrebbe mai pensato che Sinclair fosse così cagionevole, ma che ad ogni modo, ella era ben da compiangere per non potersi, grazie alle indisposizioni di suo marito, recare più di frequente al teatro, alle veglie, oppure per dovervi andare sola dopo un mese soltanto di matrimonio. Agostino era lieto in cuor suo di avere una moglie di così poco discernimento, ma quando furono calmati i primi ardori e le prime tenerezze, egli ben s'avvide e sentì non esservi alcun altro tiranno domestico paragonabile ad una giovane e bella donna avvezza fin dall'infanzia ad essere accarezzata e incensata. Maria non aveva mai posseduto una gran potenza d'affetto né una squisita sensibilità, e quel poco che ella ne aveva sortito dalla natura si era inabissato in un egoismo senza freno, egoismo tanto più incurabile in quanto che ella non era neppure cosciente. Circondata da servi, i quali non pensavano ad altro che a soddisfare i minimi suoi capricci, mai le venne in mente che anch'essi avessero un cuore e dei diritti alla sua benevolenza. Suo padre, di cui era figlia unica, non le ricusò mai cosa alcuna di quanto è umanamente possibile procurarsi, e quando Maria comparve nel mondo, bella, ricca, elegante, ella vide ben presto tutti gli uomini ai suoi piedi e stimò Sinclair il più felice dei mortali per averla ottenuta in sposa. Sbaglia chi suppone che una donna senza cuore sia facile ad accomodarsi nel ricambio dell'affezione, anzi è impossibile trovare rispetto a ciò creditore più implacabile di una donna egoista, e quantomeno l'egoismo la rende meno degna d'amore, tanto maggiori sono le sue pretensioni e le sue gelosie. Cosicché, quando Sinclair cessò di esserle prodigo delle cure e dei riguardi di un amante, trovò la fiera Sultana, niente affatto disposta a cedere al suo schiavo. Lacrime, querele, rimproveri, sguardi, ora sdegnosi, ora languenti, tutto Maria pose in opera al fine di riacquistare il suo impero su di lui. Sinclair, animo affettuoso e indulgente, procurava di ammansire la collera di sua moglie ricoprendola di bei doni e lusingandone con dolci parole l'orgoglio. E quando Maria lo fece padre di una graziosa bambina, qualche cosa che poteva parer tenerezza si risvegliò nel suo cuore. La madre di Agostino Sinclair era stata una donna di rara elevatezza d'animo, d'indole schietta, purissima, ed egli diede alla sua bambina il nome di lei, nella dolce speranza che la gentile nipotina fosse una fedele riproduzione della sua immagine. La qualcosa fu notata dalla moglie con gran gelosia. Ella considerò con amara diffidenza l'amore profondo di Sinclair per sua figlia. La tenerezza del padre era per lei quasi un'infedeltà del marito, perciò, dal dì in cui nacque la cara fanciulletta, la salute della madre cominciò a indebolirsi e a venir meno sempre più. Una vita di costante inazione di mente e di corpo, la noia e il malcontento che l'accompagnavano mutarono in breve tempo quella fiorente e giovane bellezza in una donna gialla, appassita, infermiccia, travagliata da 100 malattie immaginarie e che si credeva sotto ogni rispetto la persona più infelice e più trascurata del mondo. Le malattie delle quali ella si lagnava erano senza numero, ma quella da lei, per così dire, prediletta era l'emicrania, la quale le permetteva di confinarsi nel suo appartamento 3 giorni almeno su 6. Ne venne per conseguenza che le faccende domestiche caddero in mano agli schiavi e Agostino Sinclair non ebbe troppo a lodarsene. La salute della sua unica figlia, di una delicatezza eccessiva, avrebbe avuto bisogno di sua madre, perciò egli temeva che la sua bambina diventasse, presto o tardi, vittima della trascuratezza di costei e si era deciso a condurla seco in una sua gita nel Vermont, dove aveva indotto una sua cugina, Ophelia St. Clair, a venire a stabilirsi nel sud in casa sua. E ora che i campanili e le cupole di New Orleans cominciavano a mostrarsi ai nostri occhi, è tempo che facciamo una più intima conoscenza con Miss Ophelia. Tutti coloro che hanno viaggiato negli stati della Nuova Inghilterra si ricorderanno di aver veduto in qualche recente villaggio parecchie vaste fattorie ombreggiate dagli aceri col loro erboso cortile, né avranno certamente dimenticato l'ordine perfetto, il riposo e la tranquillità che vi regnano. Mai nulla di smarrito, nulla che non sia al suo posto, non un piolo mal connesso alla palizzata, non una pagliuzza nel cortile coperto d'erba coi suoi cespugli di lilà crescenti sotto alle finestre. L'interno della casa si divide in ampie stanze disposte e assettate con quella severa precisione che attesta, nelle abitudini domestiche, un'esattezza simile a quella del vecchio orologio che pende in un angolo. Nella stanza dove suole raccogliersi la famiglia è una rispettabile libreria dove stanno disposti in bell'ordine Il paradiso perduto di Milton, La storia antica e moderna di Rowling, Il pellegrinaggio del cristiano di Bunyan e la Bibbia di famiglia postillata da Scott, e vari altri libri non meno solenni e pregevoli. In casa non vi sono servi e ciò nonostante si vede ogni pomeriggio la vecchia signora con la sua cuffia candida come neve, con gli occhiali sul naso, che attende a cucire circondata dalle sue figlie con tanta tranquillità come se non avessero in che altro occuparsi. Esse hanno già fatto tutte le loro faccende in un'ora del mattino già da loro dimenticata. E a qualunque ora vi rechiate a visitarle, le troverete pronte a ricevervi. Il pavimento della vecchia cucina ignora che cosa sia una macchia, le tavole, le seggiole, i vari utensili sono sempre al loro posto e tuttavia si preparano qui tre o quattro pasti ogni giorno. Vi si lava e stira la biancheria. E copiose provviste di formaggio e di burro vengono ivi silenziosamente alla luce. In una di tali fattorie e in una di tali famiglie, Ofelia aveva passato 45 anni di una vita tranquilla e in essa l'avrebbe terminata, se non era il suo cugino che la invitò a recarsi con lui a New Orleans. Primogenita di una numerosa famiglia, era stata tuttavia considerata fino allora da suo padre e da sua madre come una fanciulla, e la proposta di lasciarla partire per New Orleans fu una cosa inaudita. Il canuto padre tolse dagli scaffali della libreria il suo atlante per conoscere precisamente il grado di longitudine e latitudine sotto cui è situata la gran città, e si pose a studiare diligentemente il viaggio di Flint nel sud-ovest per formarsi un'idea precisa dei luoghi. La vecchia madre domandava ansiosamente se Orleans fosse mai una città orribilmente perversa, soggiungendo che in tal caso sarebbe minor pericolo andare fra i selvaggi delle isole Sandwich che fra qualsiasi altra gente pagana. Si sparse subito voce in casa del ministro, in quella del medico e nel magazzino di mode della signora Peabody che Madamigella Ophelia St. Clair aveva intenzione di fare un viaggio fino a New Orleans per starvi con suo cugino, e l'intero villaggio non poteva vedere effettuarsi siffatta intenzione senza entrarvi un po' con le sue ciance. Il ministro, che parteggiava caldamente per l'abolizione della schiavitù, temeva alquanto che quel viaggio riuscisse a incoraggiare gli abitanti del sud a durare nel loro sistema, mentre il dottore, che era del partito opposto, dichiarava che Ofelia faceva bene a partire. Non fosse altro, diceva, per far vedere al popolo di New Orleans che noi non abbiamo malanimo contro di lui. A suo credere, le genti del Mezzodì avevano bisogno di essere incoraggiate. Quando cotesta partenza fu cosa finalmente risoluta, Ofelia ebbe solenne invito di andare a prendere il tè da tutti i suoi amici e vicini, e per 15 giorni i suoi divisamenti vennero esaminati e discussi. Miss Mosley, che era tutti i giorni per la casa a prestare l'opera sua di sarta, stupiva delle incredibili compre che Miss Ophelia era costretta a fare. Si sapeva da fonte sicura che il cugino aveva sborsato 50 dollari affinché ella meglio si adornasse, e già due abiti di seta e un cappellino si aspettavano da Boston. In quanto all'uso di quel denaro, l'opinione pubblica era divisa. Alcuni affermavano che le circostanze rendevano scusabile quello sfoggio per una volta almeno nella vita. Altri sostenevano che meglio sarebbe stato mandare quella somma alla società delle missioni. Tutti poi concordavano nell'ammirare una veste di seta che tenevasi ritta da sé e un grazioso ombrellino venuto da Nuova York. Sussurravasi pure di un certo fazzoletto da naso con guarnizioni di merletti e accertavasi che ve n'era uno con ricami intorno, ma di quest'ultimo fatto non si venne mai in chiaro per la qualcosa, resta dubbio tuttora. Miss Ofelia, come la vediamo ora sul battello a vapore, indossa un abito da viaggio di tela bruna e lucida. Ella è d'alta statura, di vita quadra, di forme angolose, magro il viso, di contorno piuttosto duro, le labbra strette, come di persona che su tutte le cose è avvezza a formarsi una sua propria opinione. I neri e vivacissimi suoi occhi sembrano cercare continuamente in giro se vi sia qualcosa da riordinare. I suoi movimenti sono improvvisi, risoluti, energici. Non parla molto, ma le sue parole vanno diritte allo scopo. In ogni sua abitudine, ella è la personificazione dell'ordine e dell'accuratezza del metodo. È puntuale come un orologio, inesorabile come una locomotiva e tiene in altissimo dispregio tutte le persone di un naturale differente dal suo. Il più grave dei peccati ai suoi occhi, l'abominazione delle abominazioni, è la leggerezza. Quando ha detto di qualcuno che gli è incoerente, costui non trova più remissione. Ella non stima chi non muove in linea retta, senza deviare verso un determinato scopo. Coloro che nulla fanno o che non sanno precisamente che cosa vogliono fare o non prendono la via meno lunga per conseguire i loro disegni, non godono la sua stima. Neanche si degna di esprimer loro la sua riprovazione, ma è verso di essi di una severità e ruvidezza indicibili. Quanto alla sua cultura intellettuale, ella ha uno spirito attivo, chiaro e vigoroso. Conosce bene la storia e gli antichi classici inglesi e i suoi pensieri sono forti, benché conclusi in limiti ristretti. I suoi dogmi teologici sono numerati distintamente, contrassegnati, disposti in ordine come i fagottini del suo baule. Lo stesso dicasi delle sue idee sopra ogni sorta di cose della vita pratica, come sarebbe il governo della casa in tutte le singole sue parti e le varie politiche e relazioni del suo villaggio nativo. Ma la base del suo carattere e di ciascuna delle sue idee è il sentimento del dovere. Questa delicatezza di coscienza è predominante, in specie nelle donne della Nuova Inghilterra. Questo è, per così dire, lo strato di granito che scende più profondo e sorge altresì alla vetta delle più alte montagne. Miss Ofelia è cieca, schiava del proprio dovere. Quando è certa di seguire la via del dovere, nell'acqua né il fuoco, come è solita dire, la distoglierebbero da quella. Si getterebbe in un pozzo o alla bocca di un cannone carico se la sua coscienza glielo consigliasse. Il suo tipo ideale di giustizia e di perfezione è sì elevato e perfetto, e sì poco condiscendente all'umana fragilità, che nonostante i suoi sforzi eroici per raggiungerlo, ella è sempre tormentata dal sentimento penoso della propria insufficienza, il che dà alla sua pietà una tinta severa e malinconica. Ma come potrà ella andare d'accordo con Agostino St. Clair, uomo di allegra vita, tollerante, incoerente, scettico e che pare mettersi sotto i piedi con una troppo libera e sdegnosa indifferenza alle abitudini e opinioni a lei essiccare. Il fatto è che ella gli voleva un gran bene. Quando era fanciulletta gli aveva insegnato il catechismo, accomodato i vestiti, pettinato la sua bella capigliatura e rivolto al bene ogni sua minima azione. E poiché egli aveva dimostrato sempre affetto vero e profondo, egli ne aveva saputo trarre il suo proprio vantaggio, persuadendola, senza gran difficoltà, che la strada del dovere metteva pur capo a New Orleans e che ella avrebbe fatto opera buona con l'andarvi a intraprendere l'educazione di Evangelina, a salvare la casa dalla rovina cui la esponevano le interminabili infermità di sua moglie. Il pensiero di una famiglia della quale nessuno si prendeva cura le si addentrò nel più vivo del cuore. Inoltre, si era legata di grande amore alla graziosa bimba e quantunque avesse Agostino in concetto di quasi pagano, pur lo amava, rideva dei suoi motteggi e chiudeva gli occhi sopra le sue debolezze con un'indulgenza che avrebbe meravigliato molto chi li conosceva entrambi. Le nostre lettrici giudicheranno meglio del carattere di Ofelia dalle sue azioni.